Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Quando è reloj? Marca la una, la scala mena, ma come le su tumba? Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Quando è reloj? Marca la dos, la scala mena, ma come le su tumba? Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Quando è reloj? Marca la tres, la scala mena, ma quello non si es. Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Ciumbalaca, ciumballa. Quando è reloj? Marca la 5. La scala mena, ma che non è messo 5. Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Quando è reloj? Marca la 6. La scala mena, ma che non è messo 6. Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Quando è reloj? Marca la 7. La scala mena, ma che non è messo 7. Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Ciumbalaca, ciumballa. Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Quando è reloj? Marca la 9. La scala mena, ma che sono da 9. Ciumballa, ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Quando è reloj? Marca la 1. La scala mena, ma come se cumba? Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa. Ciumbalaca, ciumbalaca, ciumballa.